andare. Esimo, è un po' difficile se non lo conosci. Vanno bene quelle radio lì, normale, perché sono fatte per quelle frequenze. Ciao, ciao Mauri, ci sentiamo. Ciao Mauri, a risentirci alle prossime. Ma beh, non mi sentivi tu? Sì, io ti sentivo, ero in ferma anch'io. Ah, ecco, lo sai, non è ritornato ancora. Poi c'è stato un colpo di portata che se non erro l'attore di controllo avanti. Carlo, ma ci sei ancora? Sì che ci sono, ma eravate in FM. Sì, perché Carlo voleva provare quell'apparecchio, infatti in FM va benissimo. E quello che non va bene è qua in AM, e non la sono fatti quegli apparecchi per andare in AM. Ah, ok, allora è anche quello. No, io non ci sono andato, ero un attimo distratto, stavo leggendo qua sul computer e quindi non mi sono accorto che quando siete passati. Infatti ho detto, Gianni, non stai uscendo bene, o forse ero io quella portante, capito? E perché non mi ero accorto che eravate andati in FM? sì, mi ha detto, passa in FM 5 minuti a vedere. Pensavo che proprio tu non lo sentivi per quello. No, se no sarei stato curioso anche io di vedere se lo sentivo in FM, invece nulla. No, io già lo sentivo, sì. Esce male in AM. Vanino, io non ho mai inteso scendere a Vanino, perché lui usa sempre parecchi radioamatoriali quando entra qua in AM. Non è solo me perfettamente, capito? Sì, vabbè, no, ma è la ESO che non esce bene in AM, con gli altri canali, con le altre frequenze già esce bene. Se va a un cavolo già esce a bene, in che modo già pompa il muro. Ehi, in che modo vanno benissimo? Sono anche superiori a certi apparati CB, in che modo? Però sono, diciamo, si erano adattati bene per questa frequenza. E infatti, ci ho fatto messi, purtroppo, la capirà sono delle conto. No, non so se ci sia qualche modifica alle 140 e 440 che si faccia per uscire ai 27, però esce bene, escono bene i 27. Io ce l'ho, esce bene in AM, in FM, escono bene. L'accetti un 3 e 140? Eh? Il 140 c'hai. Figlia. Sì, ne ho avuto anche io, ne ho avuto 3 io di 140, fatti un conto. Ma tu mai non ti piace né più? Oh, mi piacciono più i baracchini. Ah sì, io mi piace da un poco l'Italia. Infatti io molte volte lo lascio acceso e poi un po' vado all'opera. Perché io usavo un'antenna solo, se lo ascoltavo nelle bande radioamatoriali non potevo entrare in 27. Magari c'era gente in 27 e tutto un casino, là. Quindi io ho detto, va, mi rimetto il baracchino, così entro 27 buonanotte. Fate così. No, io l'altro ho attaccato a antenna, come lo faccio questo. Vedo che sono con montare e sono lì, lo assolvemmo. Sono una manda di più. Ma il 140 per la 27 non lo si va. Sì, se lo uso. Lo uso, ho usato un sacco di volte. So che mi tocca accendere un'ora prima, mi tocca accenderlo. Ah, per farlo scaldare. il diesel, eccetto 40, ma non c'è che passi, ma lo anda, Certo si anda, è un po' duro. Sa, io me l'ho lasciato sui 30 watt, l'ho lasciato. Di meno non si può andare di meno. Sì, direi 10 watt e c'è qua, porto a 30. Sì, no, lo... sui 30 watt perché funziona benissimo, mi senti bene una volta che è caldo. Se lo abbasso a 10 watt non si intende, non mi senti bene. Adesso io sto uscendo col 140, capito? E se diciamo è 10 watt a portante fissa e poi quando parlo va a 50. Carlo esce perfettamente, se con il microfono normale. Io lo stesso li sto alternando, l'altra radio col 140. Col 140 in AM però già esce bene questo. È perfetto, bellissima la radio. È proprio bella la radio. E così è, Tore, e se ce l'hai anche tu il 140 già lo sai com'è. Io ti credo che lo so. Da 10 watt se ne sale, a me se ne sale, a 30 watt se ne sale. No, diciamo che i primi giorni così non è che lo sapessi, diciamo, usare bene la regolazione della potenza, perché ha quelle levettine laterali che sono molto sensibili, quindi le devi proprio toccare piano piano, però io l'ho lasciato così, quando è caldo a portante fissa così, senza parlare va a 10 e poi quando parli va a picchi di 50-60. Perché non lo sapete regolare, continuo a dire, è un due conversioni rispetto agli altri radio, quindi va regolato a caldo, bisogna accenderlo, tenerlo un pochino acceso, poi andare a modularci anche con 5 watt, 4 watt, quando è caldo che si accende la ventola, quando si accende la ventola per fare la regolazione e non lo devi più toccare, io ce l'ho 20 anni così, non so manco come funziona lo slider, eppure te lo smonto e te lo ripiazzo. Buonasera a tutti. Sì, sì, no, infatti io ho trovato la quadra e adesso è così e va benissimo. Ok, e così deve essere, non bisogna toccare niente, mi sto facendo la barba dopo. Eia, raditi, raditi. Ciao Claudio, ben sentito. Quando devo crescere così non devi comprare la mente. Carlo, parla, poi ti mando la tua voce. Eia Gianni, infatti Claudio sì me l'aveva regolato lui, poi io i primi giorni qualcuno mi diceva non stai uscendo bene di radio perché tenevo il microfono troppo vicino alla bocca, abituato con l'altra radio, e quindi magari saturava e non andava bene, poi mi è stato consigliato di tenerlo lontano dalla bocca e quindi la radio va molto bene e il power quello lì non lo tocco più perché si è stabilizzato così, quando è freddo dà un po' di meno, quando è invece va in temperatura già pompa questa radio. E io caro un secondo so. Ehi, fai tranquillo Gianni. Tore, tu come mi senti con questa radio? Con le orecchie. Sì. Ti sento con le orecchie. No, se non stai uscendo bene. È il vicino di casa che sente male. Magari perché ho l'antenna sul balcone, capito? E quindi non arrivo dappertutto. No, arrivi. Ad me arrivi benissimo. Sei Santiago 9, radio perfetta, buona. Lui non lo so se ti sente bene lui. E adesso Gianni mi ha mandato l'audio, mi ascolto l'audio, riprendo tra un attimino. Vai Gianni se sei rientrato. Sì, sono qua io, sono sempre qua. E sto mandando l'audio per farti sentire come esci bene. già va bene, caro. Abbiamo mandato video e audio, così almeno. Quindi come sono combinati. Ora le prime. Quello. Oh, è entrato un pezzino di gas, è entrato, non so che c'è Magnelli, c'è Cusinelli, qualche cosa. Oh, un pezzino di gas. Ah, guardi, ma lui. No, no, lo so, no, è entrato giù, ma di che... C'è anche dell'urinare, c'è il no, qua sempre la battutina, quello non entra più. Ah, ma non è la scusa che deve andare a travagliare, vai! Fate così. Fare prete sulla neve. Vabbè, lasciamo lo mangiare, va. Ma prepararsi per mangiare. Non muovere. Ma lo Gianni, ma lo sai che ieri non ho finita di far definire l'impianto. La svenita rimane. È tutto bene, Valis. E la voglia, si è andato tutto bene. Se no rimane a rifugio tra gamara. È bello che lo sai fare. Ma c'avevi il coso per la guida, c'avevi. No, la molla, è entrata la molla da parte ha attaccato i fili, tre fili, una massa, i due fili, e poi la massa, e ho fatto tutto il giro che dovevo fare, l'interruttore, alle prese, e faccio un po' di vedere anche viaggiando un pezzo, e dopo non volevo andare, allora lì ho dovuto prendermi mazzetta scartelli col pezzettino lì ed era tutto beggiato la cosa, il tubo. Allora l'ho fatto entrare, ho cambiato i fili, ma già ho portato tutto canto e tinto. Fatti due, bisogna saperle fare queste cose, non è da scherzare l'energia elettrica. Oh, io la buia, è facilissimo una camera a farlo, entrare con la massa, tutto quanto poi ti attacchi nell'ambito, attacchi, fai entrare il resto dei fili, il pezzettino da una scatola all'altra, dove cos'era un metro di filo, da una scatola all'altra che ho fatto, all'altro ho fatto tutto il giro. Che ho fatto fare, ho fatto la presa all'interruttore della luce e ieri sera ho acceso tutto. E ma come non è copiato tutto? Dai, e come mai c'è stato questo corto tutto? Aug, perché si è interrotto un filo, si è interrotto, allora non giocava tutto, ha giocato tutto a nudo, perché erano fili in rame rigido. Avanti Capiglia. Buonasera. Buonasera lì, avanti. E anche a lì. Buonasera. Tutte cose a tutti e tutte le cosce calde a tutti quanti. Buonasera, sono io, il re di Porto Torres. Ciao carissimo, come sentite Eugenio? Oggi non è lavorato. No, oggi no, niente. Oggi sono da venerdì in ferie, domani rientro. Ah, comunque non sono arrivate le navi. No, ma io faccio un altro tipo di servizio adesso. Non c'entro più in nave. Ah, non sei più con i rimorchiare i rimorchi. Sì, sono sempre lì in compagnia portuale, ma faccio un altro tipo di servizio. Faccio capito. Beh, è entrato, se sente di segnale, sicuramente è freddo, l'apparecchio non è fatto scaldare. Sì, c'ero in moto da 5 minuti, dai. Ma è freddo ancora, se ne sente, dopo sale a 9, come scaldo. Già scalda, dai, vedi, ci trovi sempre la sera, tu ti stavi lamentando l'altro giorno che non ci sentivi mai, vedi, ci siamo sempre. Sì, andale. E quello sparviero di Claudio, non c'è? Sì che c'è. Claudio, ci sei? Si sta facendo la barba, Eugenio, buonasera. Ci sta facendo bello, buonasera. Ci sta facendo bello. Ma mi sei tanto sento anche Tonino, così è. Chi? Chi era Tonino, no? No, uno è Ettore Squalo, poi c'è Carlo, ci sono io. Ah, Ettore Squalo, sì, ok, mi ricordavo tu. Vabbè, buonasera a tutti e due. Ma la faccio la voce precisata, Tonino, no io. No, mi ricordavo Tonino, il nome è Tonino, invece Ettore. Ah, ecco, meglio così. Ma ci sentiamo bene. Sì, a voglia, non c'è problema. Eugenio, già abbiamo anche un Tonino che entra ogni tanto, Tonino Kawasaki, magari ti stai confondendo con lui. No, già, cioè, la modulazione l'ho riconosciuta, mi ricordavo Tonino invece è Tore. È il nome solo che ha sbagliato, capito? Si ricordava un nome invece era un altro. E vabbè, la notte si goza, Tore. Ma siamo diversi, ecco. Ecco cos'è, camuffa. E vabbè, dai, uno sbaglio si può fare. Carlo, riprendi, ma che ore sono? Sono le 19.34, Gianni, 7:30, dai, appena passate da 4 minuti. Io la cena oggi ce l'ho pronta perché ho fatto minestrone stamattina e quello che non ho finito stamattina me lo faccio a cena. È più buono, io l'ho fatto 3 giorni fa, però sono stato 2 giorni mangiando la chila di un vato di truffa, ho fatto minestra verdure, ci ho messo fagioli, ci ho messo tutto piselli, insomma di tutto di più. E poi la notte concerto la minore. va bene, vediamo se Claudio ha finito di farsi la barba. Riprendi Eugenio. Ma tu sei sempre lì all'aeroporto? Come Eugenio? Ho detto se sei sempre lì all'aeroporto. Sì, sono ancora là, sempre in quel posto di perdizione. Forse perdizione, già va bene. Posto di lavoro non è mai in perdizione, già andava, dai. Oggi sono libero, domani c'è un giorno di riposo, rientro dopodomani di mattina. Hai visto? Trovo il lavoro che fa, quindi oggi c'è smontante, domani libero, ok. Noi facciamo i turni 4-1, 4-2, facciamo 4 mattine e poi abbiamo libero e riposo, poi facciamo 4 sere e abbiamo solo un giorno libero, capito? Quando facciamo le sere. Così è, però ci toccano feste, sabati, domeniche, perché è sempre aperto l'aeroporto, capito? Anche nei giorni di feste, quindi se siamo fortunati ce l'abbiamo libera il giorno di festa e quindi allora possiamo fare festa anche noi, se no ci tocca lavorare, però va bene, già ci pagano pure, non ci possiamo lamentare. È come da noi, dai, anche noi non abbiamo Natale, Capodanni. Vabbè, io adesso sì, ci sono le nuove reclute, sto facendo loro, io non me ne faccio più, però me ne ho fatto per 35 anni. Io in aeroporto ci sono 21 anni, però di turni non ne posso più perché prima ne ho fatto altri 10 in un altro lavoro, facevo sempre i turni. Sono 30 anni quasi che sto facendo turni e non vedo l'ora di finire. Io sono posizionato molto bene, molto molto bene. Ho quest'anno 36 anni di contributi. Io più o meno sono come te, capito? A me mancano ancora 5 anni, e intanto prima di 67 non mi mandano. Ne ho 62 e quindi me ne devo fare altri 5. No, per l'età che ho io sto messo molto bene. Va bene. Riprendi tu, Tore. Quando arriverai a 42, per 10 mesi, Giulia. Sono Lombellonghi. Già lo so, via da te, tu sei in pensione, no Tore? Ho fatto 11 anni a gennaio, ho fatto. A voglia allora, tu sei arrivato da molto allora, bene veda, Gianni lo stesso in pensione, Claudio pure, molti sono pensionati e pochi che stanno lavorando, Eugenio. Ma tieni conto che io sono giovane, quindi... i contributi minnando. Già lo so, già ci siamo visti anche una volta nell'officina di Roberto a Carbonazzi, da già mi ricordo, tu magari sei anche più giovane di me. Io ho 52 anni. Io lo stesso, dai, più o meno siamo così. E vabbè, dai, ce li faremo questi ultimi anni, piano piano, tiriamo, portiamo avanti la carretta. Ma speriamo di arrivarci. Comunque, riprendi Gianni. Gianni, doppio rum pensionato. Sì, ancora non sono in pensione. In pensione ci andrò a 67 anni. Tra un anno. Ancora non è pensione, pensione. La mia è, diciamo, si chiama assegno ordinario di invalidità. Ah, ok, ho capito. Io. Vabbè, mi hanno contato anche i contributi, sono fortunato per quello, perché sennò mi viene da due una pensione di campo. Mi hanno anche contato i contributi, sennò guai. E a 67 la prendi in piena, dai. Sì, sì, a 67 sì. E ma la devo fare un po' prima la domanda, che se no da voi c'è il mio cognato che è andato in pensione, lui lavorava in ospedale come analista chimico. È andato in pensione, sono già 3 mesi e non gli hanno ancora dato su. Sì, ma i pubblici sono così. Anche la liquidazione la vedi dopo un anno circa. Eh sì, ma se uno non va di là, cosa va? Ti muore di fame. Ma non male, lui ce li aveva i soldi, ma se trova una persona che non c'ha soldi conservati, cosa fa? Muore di fame. Oh, si arrangerà in qualche modo. Vai. Attento, Spalviero, cosa ti stai facendo la barba per farti bello? Oh, non mi puoi, Gianni, a me me l'ha redata, fatto un mese mi ha redato la pensione, ma non l'ha fatto. Dopo un mese? Fatto un mese. Le ultime settimane? Io sono andato prima, al 20 di gennaio ci avevo la pensione. Sei stato fortunato, mio cognato è andato in pensione già da 3 mesi, non è ancora pagato. E si sta togliendo i soldi dalla banca perché non c'ha soldi, non gli danno nulla. Vuol dire che l'ha fatta molto, ma molto in ritardo l'ha fatta. Perché sennò deve aspettare dentro un mese, te la devono dare per forza. Se dall'Ibis te la devono dare per forza. No, ha fatto 4 mesi prima al capo la domanda. Vuol dire che non l'ha disegnata. Io perché a me è passato, se no 20 lì ci sono passati. Ha telefonato anche a Roma e si sono anche incazzati. Stiamo lavorando. Puro, stanno lavorando e tu sai che si offende assai, si offende. Scusa di a Gabriele, si sono giugendo. Ma vabbè, sono anche incazzati, capito? Si è sentita la voce e ha detto, digli che stiamo lavorando. Insomma, quest'Ips non è conciato bene. Io per esempio, molti miei colleghi entrano e si fanno calcola la tua pensione e il sistema gli calcola quando andrà in pensione e tutto quanto. Invece a me non me lo fa fare, mi dice che devo prendere l'appuntamento, andare all'Inps eccetera, perché praticamente io ho iniziato a lavorare quando ero ragazzino nel settore agricoltura. I contributi erano molto bassi, cioè il datore di lavoro versava pochissimo, poi c'era stato un ricorso, capito, della Unione Agricoltori che avevano vinto e quindi era passata la legge e quei contributi devono essere equiparati agli ultimi anni, capito, della tua carriera lavorativa. Per quel motivo non mi fa fare a me il calcolo, capito? Solo se vado in patronato me lo fanno fare, ma siccome ancora mi mancano diversi anni, capito? E quindi quando arrivo a 66 anni andrò in patronato e mi faccio fare da loro tutto quanto, mi faccio fare anche la domanda, in maniera tale che così faccio andare in pensione e non stanno lì a fare i conteggi che poi ti dicono stiamo lavorando, capito? Perché sono così, sono molto comodi. Gianni, io vi devo lasciare, ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo, ciao Gianni, ciao Carlo, ciao, amano un momento il nome del produttore, se... Claudio, salutatemi, se entra, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, buona serata, dai, vi saluto anche io tutti, ci circolare a tutti, buona serata, dai, che sto scendendo giù col cane, dai, che mi sta chiamando. Ci sentiamo, ciao. Ciao Tore, ciao Gianni, a risentirci, alle prossime, riprendi Eugenio. A Fidetti, a tutte e due, ti intendiamo per tutte le... Ciao. Eccoci qua, vediamo se è rientrato Claudio. Eugenio, mi sa che sta facendo altro Claudio, magari ha finito la barba e si è messo a cucinare perché è ora di fornelli questa. Tu hai messo bene sì stanotte a roba da mangiare? Sì, stanotte sono veramente messo bene. Arrivo? Ehi, avanti, chi c'è? Arrivo, da Eugenio. Io, lui. Lo chihuahua sul girone rosso. Ma mangi bene però. Ciao Massimiliano. Ciao Carlo, ciao Eugenio, buonasera. No, raggio Sciadi. C'è Viola che è bella grassoccia, lì ce n'è da mangiare. Ma c'hai anche l'altro che c'hai fuori, che lì ce n'è di più. No, quello lascio per Pasqua. Allora fai bene. Ma mi ascolti oggi con questo? Sì, Massi, senza nessun problema. Ma questo è quello 87 che avevo nell'escavatore, l'ho tolto. Ah, lei è fatto, vabbè, fatto bene. Tu bene mi ascolti col chef? Sì, la bomboletta. Ma vattene a fare. Ma cosa? Lunga, usci, era stato per insultarti. Non graffiare. Fatti bravi, fatti bravi. Ho visto che è morto Antonio Labirusa, lo conoscevi? Ehi, Antonio Labirusa, il punto è morto, assassa, vabbè, e gli stava via, lui ha fatto, poveraccio. Poverino, va, mi dispiace. A Santa Maria l'ho trovato, Luigi? Ma pensavo me l'ho trovato la tua voce. Oia, Carlo, ma come mai hai smontato l'antenna dal tetto? Perché ho cambiato QTH, non abito più davvero prima, là avevo l'accesso diretto al tetto e quindi potevo mettere tutto quello che volevo. Qua dove abito adesso invece non c'è una porta che ti porta al tetto e devo chiedere la cortesia ai proprietari dell'ultimo piano per farmi passare. E questa operazione la dovrò fare a primavera, estate, capito, che creo meno disagio. Se riesco a metterla sul tetto così finisco un po' la tribolazione qua. Adesso ho capito. Chiarissimo, dai, ho capito, hai cambiato casa, ho capito. E vabbè, vai e piazza questa antenna che non arrivi basso qua. Lo so, prima arrivavo 9:20 a Porto Torres, anche ad Alghero, arrivavo sempre con segnali così, avevo la J-Pol che mi aveva dato Claudio e praticamente arrivavo a Ottieri, capito, a Bonnannaro, dall'altra parte, Mores, sentivo i camion sulla 131 sino alla salita di Bonorva, salendo a Campeda, e buona antenna ed era posizionata bene, avevo un sacco di spazio, arrivavo anche a Castelsardo, quelle zone lì, sorso tranquillamente. Adesso sono un po' limitato sul balcone, qualcosina però riesco a sentire. Vabbè, prima era dalle parti Fiammamelli, giusto, una zona alta. No, sempre qua vicino, sempre zona Lunezzole, capito, prima ero in via Dau, adesso sono all'inizio di via Prunissenda, sempre in quella zona lì, sarò a 100 metri di distanza da dove ero prima, in linea d'aria, capito, un pochettino più in basso di prima, ma è sempre una buona zona, già è alta questa. Ah, ho capito, va bene. Riprenditela Budozzo. Positivo. Vabbè, ma diciamo che anche dove sia adesso no, va bene, anche se sia leggermente più basso, però il problema è l'antenna. Se ce l'avevi sul tetto anche quella che adesso funzionava meglio. Però comunque arrivi bene qua, qua sei nuovo. Eh sì, c'ho la boomerang sul balcone, capito? E poi dietro di me ho il palazzo più alto, la parte più alta del palazzo, e quindi non mi fa uscire verso Sorso, verso quella zona lì. Invece Porto Torres, bene o male, mi sente, dai, Eugenio mi sente, e quindi già va bene, dai, per adesso così, poi quando inizia la bella stagione vedo cosa posso fare. No, ma già va bene, dai. Eugenio, a te bene arrivo. Per forza, arrivi 9 con i picchi positivi, dai. Va bene, dai, questa non è la malta, vai. Questa è un'altra antenna. E quell'altra che ti avevo spiegato che c'ho vicino alla mantova. Ah, non ho capito. Anzi, li devo anche controllare stazionari per vedere se è a posto. No, ma va bene, sì. Ma che ti antenni voliti? Guarda, io ho questa Stellar, vabbè, mi viene sorsi un po' di radiali. Poi c'ho la mantova 1. Poi c'ho la 510 per le VLU e poi c'ho un dipolo che mi sono costruito io per la 27, piccolino, è rivolto verso la Corsica. Sì, che pizza. Io non vedo l'ora di mettere l'antenna su dentro quel tubo che ci ho detto. Senza aspettare alla primavera, la prossima settimana mi so buono, ci organizziamo, sabato mattina lo facciamo. Sì, si può fare, si può fare, ci prendiamo per tutto lo corrente, quello che ci vuole. E tu organizzati tutto quello che abbiamo parlato e poi a farlo è un attimo, già lo sai. Mi porto un po' di roba da qua e lo facciamo. Ma ci serve saldatrice, no? Cosa? Per bloccare il tubo a 9 facciamo i così passanti e vabbè, niente. Fai più i passanti, facciamo il trapano, buchiamo e andiamo. Tanto il tubo ce l'ho, se lo dobbiamo tagliare c'ho anche da fare per tagliare. Se adesso non questa settimana perché non lo so se ha messo buono, però per la prossima penso che ha messo buono. Ci organizziamo per il prossimo sabato e lo facciamo. Comunque già ho sentito anch'io che farà tempo buono dalla prossima settimana e anche la temperatura rialza, quindi se dovete fare lavori del genere penso che vada bene. Sì, basta che non ci sia vento. Poi se è una giornata anche un po' nuvolosa che non piove va bene a farlo. Esatto, già penso che terrà il tempo almeno per una settimana. Adesso ha messo pioggia un po' da stanotte, qualcosina domani e poi migliora. E dovrebbe fare anche caldo, così dicono le previsioni. Cappa. No, parliamo per la prossima settimana, non per questa, perché mi sa che domani è giovedì, così, domani siamo messo un po' di acqua. Sì, domani rimarrà nuvoloso, farà qualche goccia immagino, ma però poi da domani migliora e per la prossima settimana, una decina di giorni, dice che farà tempo buono, che c'è questa ondata di caldo dall'Africa e quindi dovrebbe tenere il tempo. Va bene signori, io mi sa che adesso mi appropinquo a cucinare, a riscaldarmi la cena, perché sono quasi le 8, ce la risentiamo, grazie del QSO, Eugenio e Massimiliano e gli altri sono già andati, ce la risentiamo, voi continuate pure se magari entra qualcun altro. Ciao Carlo, allora buona cena, buon tutto e buon proseguo di serata, va. Ci sentiamo, vai Eugenio. Ciao Carlo, ci vediamo, sto arrivando, butta le patatine fritte e sto arrivando. Eia, ciao, buona serata a tutti. Ciao Carlo. Capito oggi, se la prossima settimana è buono, ci organizziamo e lo facciamo. Va bene, vediamo un po' come si fa, cosa dobbiamo fare. Bello, questo coso è bello. Vabbè, il cavo, ordinato tra. No, il cavo non l'ho ordinato, sinceramente. Organizzati, così facciamo tutto una cosa. Se tu ti organizzi il cavo, così in settimana ti arriva, la prossima, i primi della prossima, e così facciamo tutto. Com'era il 253? No, 2... 213. Ah, 213, ok. ne prende una quindicina di metri con i PL per quel cavo e così rifacciamo e piazziamo tutto. Con i PL che ci costano più lunghi? Quei PL per il 213 non vanno bene. Vogliono una cosa più grossa, ho capito. Sì che vanno bene, perché c'hanno la testa e si svita su. Allora, se vanno bene anche quelli. Se c'hanno il connettore da togliere, capito, va benissimo. E così facciamo tutto, c'hai il palo nuovo e tutto là. Mettiamo tutto come deve essere fatto. Adesso provvedo. Poi quello, se lo vuoi tenere, quel 58, quello che c'è adesso, ti metti un antennino e ti puoi mettere anche quel baracchinetto piccolino, capito? Ecco, non è facile. Stavo guardando oggi la Game Master, tutta spaccata sotto, è proprio tutta rotta sotto. Potrebbe saldare, ma... Vuole controllata bene. E beh, invece quell'altra radio, organizzato ti sei? Sì. C'era Claudio. No, l'altro, il 48. Il 48, dici, ma devono portare in officina. Siamo sentiti tramite radio, mi ha detto che lo dà il fratello che lavora con me. E niente, me lo faccio dare. Anche quello possiamo mettere anche quel cavo 58 con quella 2001 nuova che hai, una staffa calo e ti metti quello lì, capito? Sì, ma quel 48 non funziona, vuoi riparato? Dove già va? Non so, mi ha detto che c'ha il QRM sempre alto, blu. Vabbè, fatelo dare, poi lo controlliamo. Ti ho detto me lo deve dare il fratello. Ripeto, lavora con me, me lo dà. E poi te lo do e lo controlli tu, se te ne intendi, se no lo spedivo da qualche parte. E poi ne parliamo per telefono, là, non ti preoccupare. Per 48 me lo voglio mettere nel camper. Altra cosa, quando vieni porta il rosmetro, che voglio rosmetrare il camper. Quando vengo vi porto un po' di cose, un po' di attrezzatura che ho io. Che voglio avere le stazionali nel camper, perché io ho levato un'antenna originale e ne ho messo una che ho comprato, una Midland che ho comprato, però non l'ho mai rosmetrata. Diceva che era già pronta, però non so. Già lo porto, poi facciamo tutto. Prima ti facciamo la grande e poi facciamo la piccola. Oh, mi sentono tutti bene, a chi incrocio mi sentono bene. Certo non ha un sacco di portata perché, essendo piccola antenna, però va bene, mi sento tutti bene e chiaro. Io c'ho una 2001. Come? Ti puoi mettere quella 2001? Sì, io vorrei fare quello, però il problema è che il filo dell'antenna che ho già è avvitare sotto, c'è una specie di piele che si avvita sotto, invece la 2001 ha il dado che devi... non so cosa, dovrei smontare lo spinotto, giusto? E mettere quello della 2001. Sì, togliamo quello che c'è sopra e sotto metti l'altro. Sì, dovrei fare quello, perché ho quella che mi avevi dato tu, che era tarattissima, quella era la 2001 piccolina, te lo ricordi? Che era, non era l'EM, era un'altra cosa, blu. Insomma, ti avevo dato una flash. Era uguale alla 2001, con la carica uguale, però è corta. Sì, la flash ti avevo dato. La mini turbo si chiama. Esattamente, la mini turbo. Bravo. Quella era tarattissima, quella la usavo nel furgone, usciva che era una bellezza. E vorrei mettere quella nel camper. Ma già si può fare, va. Vediamo cosa si può fare. Capito? Prima ti organizziamo tutto la maravà di là, già lo sai. E poi facciamo il camper. Quella stai su è la cosa più lunga. Però voglio capire che magari questa antenna ha bisogno di più massa. Perché io ti spiego come ho fatto il camper. Ha una staffa. C'è un ponte, tu immagina un ponticello bucato e collato sopra, e sopra c'è l'antenna. E poi c'è il filo di massa che arriva al ponticello. Boh, non so se quella mini turbo ha bisogno di più massa, non so. Vuole vista, Eugenio. Si può portare anche uno dalla staffa dove è collegata, si può portare un cavo di massa al telaio. E ne devi fare io, poi? Non devi fare io, non ti preoccupare. Si fa una cosa fatta bene, no? Eh beh, certo, nel camper voglio roba fatta solo, scusate, bene. Anche perché l'impianto era a casa. L'impianto l'ha fatto a casa lì. Ehi, non ti preoccupare, già si fa bene, no? Non ti mettere questi problemi. Perché ho anche il piano grande, mi avevo fatto fare in officina da me, c'ho il piano grande. Ci sarà 40x40 in ferro, in acciaio, in gatto, bello. E c'ho anche il buco al centro per la Turbo 2001. E quando facciamo tutto, facciamo anche quello lì. Sì, va bene, d'accordo. Che ne sono, Leo? Claudio! Claudio se ne è andato a mangiare. E anche io adesso me ne scendo a cenare, va. Ok, ci sentiamo. Buona serata, buona cena, buon tutto. Un abbraccio, ci sentiamo, va. Eia, ci sentiamo, Massi. Ciao, buona cena. Ok? Ciao, Massi, anche da parte mia. Ciao, ciao. Eia, ciao.